Amen. Amen. Onofrio ora mi porta gli appunti del messaggio. Sapete che lui è Onofrio, vero? Lo conoscete per noi. Rimanete in piedi perché Onofrio ha giustamente un microfono in mano e voglio chiedere a lui di pregare per noi. Lo sapevi, qualcuno te l'aveva accennato già, ti aveva preparato, perché l'ho fatto a sorpresa nei confronti di Giuseppe che al primo incontro mi ha portato il Legio e quindi Onofrio l'avrà saputo e quindi vogliamo chiedere ad Onofrio di pregare per questo tempo. Forza. Allora, io vorrei pregare nuovamente per Marta e che lei possa essere, comunque, possa dare un'ulteriore testimonianza della grandezza del Signore Sì. per la guarigione, che possa essere di ispirazione nella fede a tante persone che in questo momento hanno Amen. un momento difficilissimo. Vorrei pregare anche per tante persone che combattono tutti i giorni con malattie e che combattono non solo con malattie, ma che combattono contro rabbia, giudizio, avidità. E che possono loro invece trovare quella che è la strada del Signore, la parola del Signore, amore, generosità, che possono finalmente imboccare la strada più giusta. Amen. Amen. Amen. Amen. Grazie, Onofrio. Se vuoi continuare, anche Onofrio, voglio dirti questo. Tu sei quella testimonianza di cui hai pregato per altri. Ed è vero, ed è per questo che hai pregato questa preghiera. Tu sei quella testimonianza di una vita riscattata, liberata da quelle cose negative e oggi sei una nuova vita in Cristo Gesù e Dio ha un piano meraviglioso per te che si sta srotolando davanti a te e noi siamo tutti contenti per questo, gioiamo con te per questa vittoria. Vogliamo fare un applauso più sentito per Onofrio e ancora di più per quello che Gesù ha fatto nella sua vita. Alleluia, alleluia. Potete accomodarvi, sapete che in questo mese stiamo trattando questa tematica, che è la tematica della missione. E questa settimana, per la quarta settimana di seguito, ci concentreremo su questa tematica, la tematica della missione. E voglio che ci domandiamo perché farlo. Perché? Perché concentrare un mese intero delle nostre riunioni, dei nostri messaggi sulla missione. Perché è così importante? E forse perché vogliamo sensibilizzare la Chiesa ad andare e perché vogliamo sensibilizzare la Chiesa a mandare, certamente. Perché vogliamo sensibilizzare la Chiesa a dare generosamente affinché sia sostenuto ogni operaio nella missione che svolge nelle nazioni meno raggiunte. Assolutamente sì, questa è la ragione, perché vogliamo invitare tutta la Chiesa a vivere preghiera per ciò che viviamo attraverso i missionari, attraverso gli operai che sono sul campo, affinché noi possiamo essere sensibilizzati e motivati ancora di più a pregare per tutto questo. Assolutamente sì, ma queste sono azioni. Queste sono azioni. E io, la mia preghiera è che noi non cogliamo solo delle azioni. La mia preghiera è che noi cogliamo il cuore che c'è dietro queste azioni. Io prego che noi possiamo cogliere la passione che c'è dietro la parola missione, che noi possiamo avere il nostro battito cardiaco che batte all'unisono con quello di Dio, non con quello di Gianluca o di chi dimostra di avere una particolare passione per questo, ma all'unisono con Dio perché è il cuore di Dio che batte per i perduti. È il cuore di Dio che in questo momento è orientato, è appassionato, è spinto a raggiungere quelle persone perdute. E per Gesù non ci sono perduti di serie A e perduti di serie B. Lui è tanto appassionato per il tuo familiare intimo che tu tanto vorresti vedere salvato, quell'amico o quell'amica intima che tanto vorresti vedere salvato. Il suo cuore batte tanto per loro quanto per chi è in un paese straniero, in una cultura diversa dalla nostra, con abitudini diverse dalle nostre e vive nel buio più totale, non ha la speranza che qualcuno bussi alla sua porta e gli dia testimonianza di che cosa significa vivere una vita con Cristo Gesù. Gesù è appassionato per queste cose E io prego che noi non possiamo cogliere solo le azioni, che noi non possiamo condividere una bella visione di Chiesa, ma che noi possiamo essere appassionati di tutto questo. Capite la differenza? Un conto è dire io condivido la visione della Chiesa Pieno Vangelo, io condivido quello che si sta facendo, io partecipo anche nella mia misura, nelle mie possibilità, a quello che come Chiesa viviamo. Un altro conto è dire io sono appassionato per la visione di Chiesa. La mia passione è vivere per ogni cosa che il Signore ha rivelato a noi come Chiesa e ci guida a portare avanti a Modugno, nella Puglia, in Italia, fino all'estremità della terra. Questa è la mia preghiera, che noi possiamo essere appassionati, non simpatizzanti di qualcosa. C'è una seria differenza, c'è un'abissale differenza. Posso farvi una domanda? A quanti piace il sushi? Il Signore vi ama lo stesso, se non alzate la mano. Vedo alcuni che non è il passo di salvezza quello che state facendo. È solo sushi. Ora, chi è appassionato di sushi invece? Mangerebbe sushi ogni giorno. Oggi preferirebbe il sushi a qualsiasi altra pietanza gli possa essere messa davanti. Fate vedere le vostre mani. Lo vedete che hanno passione perché le alzano tutti e due, no? Mia moglie è una di queste. E l'anno scorso mi ha fatto una domanda cruciale, no? Eravamo già sposati o non eravamo ancora sposati? Eravamo già sposati, quindi da moglie verso marito, non da fidanzata verso fidanzata, da moglie verso marito, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Mirko, ma a te piace il sushi? E io un po', sai, preoccupato che ne andasse di mezzo il nostro matrimonio, ho detto sì. E lei ha visto questa insicurezza in me. Lei ha notato che non era un sì a piene mani. Non avevo dato il mio cuore al sushi, no? E quindi lei ha detto: ti devo portare in un posto dove tu ti innamorerai di sushi, perché lì fanno quel sushi che piace per forza anche a te. Perché finora quello che tu hai assaggiato non è il vero sushi. Poi ho capito che mi stava portando in quel posto per farmi aprire il portafoglio e uscire 35 euro a testa. Vabbè, ma questa è la storia di ogni marito, no? Però mi ha appassionato ed era appassionata. Quella sera non vedeva l'ora. Lei si fa attendere, no? Come tutte le mogli, credo che è una costante, no? Si fa attendere per gli appuntamenti, per le cose. Ma per il sushi era in anticipo. Per il sushi era in anticipo e siamo arrivati là e per me era un ristorante come un altro, ma per lei era casa sua, era il suo regno. Lei è entrata, io me lo ricordo ancora, te lo ricordi amore, che lei è entrata e si è fatta strada fra i tavoli e dietro c'era il cameriere che diceva un attimo, sapete i camerieri asiatici che sono un po' discreti, che ci stava dicendo non so se c'è, e lei no, stava cercando il tavolo. Allora qual è il tavolo libero nostro? Ho un proselito che devo portare a conversione, fate spazio, si deve salvare mio marito, deve amare il sushi. Ho scoperto così che mia moglie è innamorata di Dio, al primo posto c'è Dio, poi ahimè c'è il sushi e solo in terza posizione ci sono io, perché quando abbiamo ordinato il sushi i suoi occhi si sono proprio illuminati, brillavano, e quando è venuto il cameriere, mentre io ero lì che stavo studiando il menù e cercando di capire che cosa ci fosse in questi piatti, lei sapeva il menù a memoria, era la sua Bibbia, e quindi ha cominciato a lanciare numeri, no? Io voglio il 172 e il 36 e poi mi dai una doppia porzione del 15 e vorrei il 22, ma mi devi aggiungere quella salsa. Io ero lì che studiavo e cercavo i numeri e non sapevo che cosa ordinare, e poi alla fine della cena lei mi ha fatto la domanda: allora? Io non ero così entusiasta, cioè, però per non demolire quello che si stava costruendo, Non ho detto sinceramente quello che confesso a voi oggi, e cioè che a me hanno appassionato più le patatine fritte di quel menù che tutto il resto. E quindi, vedete, questa è la differenza tra l'avere una passione e avere una simpatia, avere piacere. E la missione, Chiesa, la missione non può essere la passione di un piccolo gruppo di persone che decide di andare, di un altro gruppo in minoranza all'interno della Chiesa che è appassionata per quel gruppo di persone che è partito e quindi è animata da una particolare preghiera, da una particolare attenzione, da un dare, da un coinvolgersi, da un parlare di tutto questo. No, la missione è per tutta la Chiesa, perché il nostro Dio ha passione per questo, e noi, essendo suoi figli e sua famiglia, dobbiamo per forza di cose avere la stessa passione. Non si tratta del sushi, si tratta della salvezza di anime. Si tratta della salvezza di anime perdute per le quali Gesù ha dato la sua vita. Lui è venuto su questa terra e ha dichiarato queste parole che conosciamo molto bene: Dio ha tanto amato il mondo, e ha dato per questa ragione, per questo amore, il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Credete che Dio non voglia che tutti abbiano vita eterna? Questa è la passione di Dio, ma noi sappiamo che la vita eterna è l'eredità di coloro che credono in Cristo Gesù, e l'unico modo per credere in Cristo Gesù è conoscere Cristo Gesù, e l'unico modo per conoscere Cristo Gesù è che siano mandati i suoi servi, i suoi ambasciatori, ovvero la Chiesa, a chiunque questo messaggio non lo ha ancora ascoltato. Questa è la nostra passione, non è la tematica del mese di maggio. Amen. E noi vogliamo che il nostro cuore batta e pulsi all'unisono con Dio. E mentre pregavo ieri, mi chiedevo: Signore, ma come possiamo cogliere questa passione? Come si coglie la passione per i perduti? Come si coglie la passione per tutto ciò che appassiona te? Come possiamo appassionarci per le cose che ti appassionano? E la risposta è molto semplice, non è molto complessa. La risposta è semplice, non aspettatevi una grande rivelazione, perché la risposta è semplice, la risposta sta nell'avere una relazione con il Dio che ha quelle passioni e nel fare una preghiera specifica. E la preghiera dice questo: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Da qui parte tutto. Da qui parte quello che abbiamo sentito la scorsa settimana, il nostro vanto. È da qui che parte, da questa preghiera pregata in maniera sincera, pregata in maniera autentica, pregata in maniera tale che desideri che si adempia. Se tu preghi con tutto il cuore è perché lo senti, è perché lo vivi, è perché sei animato da questo desiderio: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Allora di conseguenza, per forza, vivi il vanto, vivi il desiderio di fare in modo che la sua parola raggiunga ogni nazione, ogni tribù, ogni etnia, ogni popolo. È così che nasce quella fede che ci ha descritto Luis 2 settimane fa. È da lì che nasce la fede di dire: vuoi togliermi la vita? Io ho scelto di seguire Cristo. Io ho scelto di seguire Cristo, non la mia volontà, ma la sua volontà sia fatta. È da lì che parte tutto, è da lì che parte quel ruolo da protagonisti che Christian Nani ci ha illustrato, che unisce chi è mandato da chi manda. E questo ruolo che ci è dato come Chiesa da vivere in prima linea, tutti coinvolti, nasce dalla preghiera: venga il tuo regno, Signore Gesù, il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Quando tu preghi questa preghiera in maniera sincera e autentica e la metti all'inizio di ogni altra tua richiesta, allora sai che stai vivendo una fede matura e sai che stai perseguendo il cuore e la passione di Dio. Non a caso Gesù ci ha insegnato questa preghiera. Non è meraviglioso colui che ci permette di pregare, che è Gesù, ci insegna a pregare e nel suo insegnarci a pregare ci dice: seguite questo modello. Sappiate a chi state rivolgendo la vostra preghiera, Padre nostro. Sappiate che Lui è in autorità su tutto, che sei nei cieli, che la preghiera è un modo per adorarlo, per onorarlo, per farlo grande, sia santificato il suo nome. E poi, sapete qual è la vostra prima richiesta che dovete fare a Dio? Prima di qualsiasi altra richiesta? Prima del pane quotidiano? Prima di essere liberati dal male, prima di vincere le tentazioni, non essere indotti dalle tentazioni, Gesù dice: pregate questa richiesta prima di ogni altra, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questa è la base di tutto. È da qui che parte tutto. Io mi chiedo quanti di noi stanno facendo questa preghiera in maniera autentica. E sapete, le migliori scelte della nostra vita fluiscono da questo tipo di preghiera. Se ti stai chiedendo qual è la migliore richiesta che io possa fare a Dio per la mia vita, nelle circostanze che sto vivendo, per il tuo presente, per il tuo futuro, per i tuoi figli e per qualsiasi cosa stai vivendo, devi decidere o devi fare, la risposta è semplice. La preghiera migliore che puoi fare è: sia fatta la tua volontà. Rivelami la tua volontà. Questa è la preghiera migliore. E da qui scaturisce la rivelazione che Dio affida ai suoi, la rivelazione della sua volontà. E attraverso questa preghiera ti dirà: fai questo. Attraverso questa preghiera ti rivelerà: rinuncia a quest'altro. Attraverso questa preghiera ti dirà: ripensaci su queste cose. Attraverso questa preghiera ti farà vedere ogni cosa in una maniera diversa ed è lì che coglierai la passione di Dio, il cuore di Dio, la visione per le nazioni e il senso, il valore della missione. Quando cominci ad abbassare te stesso e a non pregare più implicitamente, perché nessuno di noi esplicitamente prega sia fatta la mia volontà, però non pregherai più implicitamente sia fatta la mia volontà. Vedete, ci sono solo due strade che noi possiamo percorrere. Due strade. È Gesù che le illustra. E dice: ci sono due vie che noi possiamo percorrere. E una via è quella che persegue la nostra volontà. È una via dove noi scegliamo di fare quello che riteniamo noi che sia giusto fare. Una via che è una via dove siamo noi il re, dove il regno che deve stabilirsi è il nostro, dove ciò che vogliamo, ciò che desideriamo è tutto ciò che concentra la nostra mente, le nostre azioni. Poi c'è un'altra via, la via per eccellenza, che Gesù descrive essere stretta e tortuosa. Di solito le vie strette e tortuose sono quelle, per chi c'è stato in montagna, sono quelle che ti portano alle vette più alte, ai panorami più belli, alla visuale migliore. E Dio dice: la via per eccellenza che vi invito a vivere è quella stretta, quella tortuosa. E questa via è quella via dove tu dici: non la mia volontà, non ciò che piace necessariamente a me, non ciò che io ritengo giusto fare, dire e come io ritengo giusto agire, ma la tua volontà, sempre e comunque. Queste sono le due vie. Una via è la via del controllo. Oh, quanto siamo soggetti a questa cosa. Cercare di controllare le nostre vite. Perché non facciamo la preghiera "sia fatta la tua volontà"? Possiamo dircelo sinceramente, perché in realtà non vogliamo perdere il controllo. Perché in fondo, dentro di noi, qualcosa ci sta dicendo che la volontà di Dio non è la perfetta, non è la migliore. Oppure la volontà di Dio è rischiosa. La volontà di Dio può farci perdere qualcosa che a noi caro. La volontà di Dio può metterci in pericolo. Ed è anche vero, perché lo leggiamo e lo sentiamo dalle testimonianze. Ma quale altra vita vorresti vivere se non quella guidata da Dio, dove ti metti completamente in gioco e dove non sei tu più che conti, ma è Lui che conta al centro, perché Lui è re e tu scegli di dire: venga il tuo regno, non il mio regno. È un bivio quello che siamo portati a intraprendere. E possiamo continuare ad avere il controllo e vivere nelle nostre ansie, vivere nelle nostre paure, nella nostra autonomia e nella nostra ribellione, e conosciamo bene cosa produce questo. Oppure possiamo scegliere di perdere il controllo, e l'altra via è una via di arresa. Quando tu dici sinceramente, totalmente, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, stai dicendo: io mi arrendo. Io non prendo il controllo, io mi arrendo a te. Cosa devo fare? Dimmi tu cosa fare. Le vite più belle, le vite più gloriose, le vite che hanno tanto da raccontare e mostrano la testimonianza della potenza di Dio, sono le vite di coloro che scelgono di dire: non voglio il controllo, lo voglio lasciare a Dio. Non voglio fare la mia volontà, voglio fare la sua volontà. Non voglio il mio regno, voglio il suo regno. Queste sono le vite più belle, ed è per questo che parliamo di missione. Perché vogliamo essere ispirati da chi è andato nel campo, perché se è andato nel campo è sicuramente perché davanti a quel bivio ha detto: non la mia volontà, ma la tua. E questo vogliamo imparare, non perché siamo da meno, ma perché nel nostro rimanere, se questa è la volontà di Dio, Dio ha qualcosa da rivelarci, da farci vivere una vita che è altrettanto gloriosa per il suo regno e per il suo nome. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto questa preghiera? Dove ti sei messo completamente in gioco e hai detto: Signore, non la mia, ma la tua volontà. Sapete, oggi è la domenica di Pentecoste. E la Pentecoste ci ricorda l'adempimento della promessa di Gesù, che troviamo in Atti 1:8. E la promessa di Gesù è: riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi e mi sarete testimoni, che è una parola che ci apre lo sguardo non solo a evangelizzare, ad annunciare, ma a vivere una vita trasformata e a manifestarla, a mostrarla a tutti, a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. È il mandato di Gesù per ciascuno di noi, essere trasformati mediante il potenziamento dello Spirito Santo che viene ad abitare in noi, e in questa trasformazione portare trasformazione ad altri. Questo è quello che Dio vuole fare in te, in me. Ma noi dobbiamo tornare a fare quella preghiera. Per quanto mette in gioco tutto, per quanto è rischiosa, per quanto fa nascere in noi delle paure, delle insicurezze, noi dobbiamo tornare a fare quella preghiera, o forse tu oggi la devi fare per la prima volta e devi sinceramente poter dire: Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta nella mia vita. È lì che cogliamo il cuore, è lì che nasce di nuovo la passione. Forse hai perso la passione per le cose di Dio e non c'è nessuno che te la può dare. Forse stai cercando che qualcuno ti possa dare quella passione persa, perché pensi che qualcuno ti abbia derubato di quella passione. Non c'è nessuno che ti ha derubato di quella passione, se non il maligno che ti ha portato a fare delle preghiere che forse inconsapevolmente erano: sia fatta la mia volontà, sia fatta la mia volontà. Non so se capita anche a voi, ma a volte io mi ascolto nelle preghiere ascolto tutto l'elenco delle richieste che faccio a Dio e mi rendo conto che non sto facendo altro che dire a Dio: Signore, sia fatta la mia volontà. Signore, sia fatta la mia volontà. Signore, sia fatta la mia volontà in questo, sia fatta la mia volontà in quest'altro, sia fatta la mia volontà in questo. E non c'è nulla di sbagliato nel presentare a Dio le nostre richieste in preghiera, perché Dio ci invita a farlo. Ma prima ci chiede di far nostra la preghiera più importante e la migliore preghiera che puoi fare, che è dire: Signore, la tua volontà, la tua volontà, la tua volontà. Perché per questo voglio vivere, per questo voglio morire. La tua volontà sia fatta in me. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo farla questa preghiera. Voglio chiedere a tutti noi di chiudere i propri occhi. E se sai che lo Spirito Santo ha voluto parlare a te questa mattina, ti ha voluto ricordare che c'è una passione che ti aspetta, c'è una passione che Dio vuole darti, vuole farti battere il cuore per qualcosa di eterno, per qualcosa che ha vero valore nella vita. Se è questo quello che desideri, allora io voglio pregare con te, perché è anche la mia preghiera, e voglio pregare per te. Vogliamo chiudere i nostri occhi. E quale gesto migliore se non quello di alzare le nostre mani in segno di arresa? Alleluia, grazie Gesù. Noi ci fidiamo, Padre, se siamo qui è perché tu sei tutto per noi. Noi ci fidiamo, dillo a te stesso, ricordalo a te stesso. Noi ci fidiamo che le tue vie sono le migliori, le tue scelte sono le migliori, la tua volontà è la migliore, la tua strada è la migliore. E ad ogni costo noi vogliamo seguire quella, non vogliamo perdere il nostro tempo e perdere la vita che ci hai dato da vivere su questa terra inseguendo la nostra volontà, le nostre scelte, il nostro controllo, il nostro regno. Noi non vogliamo il nostro regno, vogliamo il tuo regno nelle nostre vite, e che le persone osservando noi possano vedere che c'è il regno tuo che domina, che ha autorità su di noi, che noi abbiamo una vita che non è nostra ma che è guidata, abbiamo una vita nella quale noi non siamo l'ultima autorità ma sei tu Gesù la nostra autorità, tu sei il re. Noi preghiamo questa preghiera: sia fatta la tua volontà nelle nostre vite, perché desideriamo veramente tutto questo ad ogni costo. Io ti prego in questo momento di farci appassionare per le cose che appassionano te, di farci orientare verso le direzioni che tu hai per noi, per ciascuno di noi, perché hai un piano meraviglioso per la vita di ciascuno di noi. E anche se questo piano include una forma di sofferenza, una forma di vulnerabilità, include un pericolo, Padre, noi vogliamo fare qualsiasi strada pericolosa, difficile, sofferente che sia, purché tu sei con noi ed è una strada che a te è gradita. Per questo siamo tuoi discepoli. Oggi rinunciamo a noi stessi, prendiamo la croce e ti seguiamo, Gesù. E io prego questa preghiera per tutti coloro che stanno rinnovando questa decisione, e prego questa preghiera per chi per la prima volta sente in questo momento l'esigenza di orientarsi a vivere una vita per qualcosa di più grande che non il proprio orto, le proprie cose, il proprio controllo. Noi lasciamo a te il controllo, Gesù. Nel nome tuo santo lo facciamo ora. Amen. Alleluia. Vogliamo stare qualche istante ancora alla sua presenza in preghiera. E forse ora devi elencare a Dio quelle aree nella tua vita dove riconosci che non hai chiesto che la sua volontà sia fatta. Senti nel tuo cuore di arrendere tutte le tue aree, tutte le aree della tua vita. Non vuoi rinunciare a nessuna, cioè vuoi che in tutte le aree della tua vita Lui sia coinvolto. Allora nominale in preghiera. La tua volontà, Signore, nel mio matrimonio. Non la mia volontà, la tua volontà. La tua volontà nei miei rapporti, nelle mie relazioni. La tua volontà nel servizio in chiesa. La tua volontà nelle mie finanze. La tua volontà nel mio lavoro. La tua volontà in quello che devo dire, in quello che devo fare. Non la mia volontà, non il mio diritto. Anche quando è calpestato, quando mi sento derubato, io ho un solo re, sei tu Gesù, e a te sottometto ogni area della mia vita. Fallo ora, elenca le aree della tua vita che vuoi sottomettere e arrendere a Dio. Lo facciamo insieme in preghiera e adorazione ancora.